vestiti di fiori che le stagioni non le distinguo più. Come sei bella nello specchio retrovisore. Propaganda dei nostri decennali errori. Ma che vuoi che ne sappia io dei tuoi fondali? Noi per esempio siamo uguali. Ma pure è vero che le nostre strade ci dividono. Triste per davvero. Vorrei vederti triste, triste per davvero. E allora è vero che le nostre strade ci